ad alta voce. Alba Rohrbacher legge Agostino di Alberto Moravia. E la chiamano estate, questa estate senza te. Ma non sanno che vivo ricordando sempre te. Il bagno durò a lungo. La madre e il compagno giocavano nell'acqua come due delfini e parevano essersi del tutto dimenticati di Agostino. Finalmente risalirono. Il giovane rimontò in un balzo sul pattino e poi si chinò a tirar su la madre che dall'acqua invocava il suo aiuto. Agostino guardava. Vide le mani del giovane che per sollevare la donna affondavano le dita nella carne bruna, là dove il braccio è più dolce e più largo, tra l'omero e l'ascella. Poi ella sedette sospirando e ridendo accanto ad Agostino e con le unghie aguzze si staccò dal petto il costume fradicio in modo che non ci aderissero le punte dei capezzoli e la rotondità dei seni. Ma Agostino ricordava che quando erano soli, la madre, forte com'era, non aveva bisogno di alcun aiuto per rissarsi sul pattino. E attribuì quella richiesta di aiuto e quei dimenamenti del corpo che pareva compiacersi in femminili goffaggini al nuovo spirito che aveva già operato in lei tanti e così sgradevoli cambiamenti. In verità, non poté fare a meno di pensare, pareva che la madre, donna grande e piena di dignità, risentisse adesso quella grandezza come un impaccio di cui si sarebbe disfatta volentieri. E quella dignità come un'abitudine noiosa a cui, ormai, le convenisse sostituire non si capiva che maldestra monelleria. Risaliti sul pattino si iniziò il ritorno. Questa volta i remi furono affidati ad Agostino. E i due sedettero sopra la traversa che congiungeva le due navicelle. Egli prese a remare piano, nel sole che bruciava, domandandosi spesso che senso avessero le voci, le risa e i movimenti che gli giungevano da dietro le spalle. Ogni tanto la madre, come ricordandosi della sua presenza, tendeva un braccio e gli faceva all'indietro una maldestra carezza sulla nuca. Oppure lo solleticava sotto l'ascella, domandandogli se fosse stanco. «No, no, non sono stanco», rispondeva Agostino. Udiva il giovane dire ridendo, «Gli fa bene remare!» e dava con rabbia un colpo più forte con i remi. La madre si appoggiava con la testa al sedile su cui stava Agostino e teneva le gambe lunghe e distese, questo egli lo sapeva. Ma non sempre gli sembrava che questo atteggiamento fosse mantenuto. Ad un certo punto, anzi, ci fu un tramestio e come una breve lotta. La madre parve quasi soffocare, si levò balbettando qualcosa, il pattino pencolò da un lato e Agostino ebbe per un momento contro la guancia il ventre della madre, che gli parve vasto quanto il cielo e curiosamente pulsante come per una vita che non le appartenesse o comunque sfuggisse al suo controllo. «Torno a sedere?» ella disse stando in piedi a gambe larghe, le mani appoggiate sulla spalla del figlio, «se mi promette di essere buono». «Lo prometto», giunse con falsa e giocosa solennità la risposta del giovane. Goffamente ella si lasciò di nuovo scivolare sulla traversa delle navicelle e in quest'atto sfregò il ventre contro la guancia del figlio. Rimase ad Agostino, sulla pelle, l'umidore del ventre chiuso nel costume fradicio, umidore quasi annullato e reso fumante da un calore più forte. Eppur provandone un vivo senso di torbida ripugnanza, per un'ostinazione dolorosa non volle asciugarsi. Appena si furono alquanto avvicinati alla riva, il giovane balzò agilmente sul sedile e, afferrando i remi, ne scacciò Agostino che fu costretto a prendere il suo posto presso la madre. Ella gli cinse subito la cintola con un braccio, gesto insolito e in quel momento ingiustificato, chiedendogli «Come va? Sei contento?» con un tono che non pareva aspettare alcuna risposta. sembrava oltremodo lieta e ad un tratto si mise a cantare, altro fatto insolito, con una voce melodiosa e certi patetici gorgheggi che facevano rabbrividire Agostino. Pur cantando, non cessava di stringerlo al suo fianco, infradiciandolo con l'acqua di cui era imbevuto il costume e che pareva riscaldata e resa simile a una specie di sudore da quel suo acre, violento calore animale. Così, la donna cantando, il figlio lasciandosi stringere con animo pieno di fastidio e il giovane remando, in un quadro che Agostino sentiva falso e accomodato, ritornarono a riva. Il giorno dopo il giovane si ripresentò. La madre fece venire anche Agostino e si ripeterono a un dipresso le medesime scene del giorno prima. Poi, dopo un'interruzione di un paio di giorni, ci fu una nuova gita. Finalmente, crescendo come pareva l'intimità tra la madre e il giovane, costui venne tutte le mattine a prenderla. E tutte le mattine toccò ad Agostino accompagnarli ed assistere alle loro conversazioni e ai loro bagni. Egli provava una viva ripugnanza per queste passeggiate e alla fine incominciò a ricorrere a mille pretesti per sottrarvisi. Ora scompariva e non si faceva più vedere se non quando la madre, dopo averlo chiamato e cercato a lungo, lo costringeva a mostrarsi non tanto con i suoi richiami, quanto con la pietà dolorosa che destavano in lui la sua noia e il suo disappunto. Ora si immusoniva sul pattino, sperando che i due comprendessero e si decidessero a lasciarlo stare. Ma alla fine egli era sempre più debole e pietoso di sua madre e del giovane, ai quali, invece, bastava che lui venisse. Poi, dei suoi sentimenti, come poté ben presto capire, non si curavano più che tanto. Così, nonostante ogni suo sforzo, le gite continuavano. Un giorno Agostino stava seduto nell'arena dietro la sedia a sdraio della madre, aspettando di vedere il pattino bianco spuntare sul mare e la madre agitare un braccio in segno di saluto, chiamando per nome il giovane. Ma l'ora in cui, di solito, il giovane appariva era passata. E la madre lasciava capire chiaramente, con l'espressione delusa e annoiata, che non sperava più che venisse. Agostino si era spesso domandato quel che avrebbe provato in tal caso. E aveva sempre pensato che la sua gioia sarebbe stata almeno tanto grande quanto l'amarezza materna. Fu stupito di non risentire invece che una vuota delusione. E comprese ad un tratto che quelle umiliazioni e quelle ripugnanze delle gite quotidiane gli erano ormai quasi diventate negli ultimi tempi una ragione di vita. Così, più di una volta, per torbido e inconsapevole desiderio di far soffrire la madre, le domandò se quel giorno non andassero in mare per la solita passeggiata. Ella gli rispose ogni volta che non lo sapeva, ma che era probabile che quel giorno non ci sarebbero andati. Stava distesa nella sedia a sdraio, un libro aperto sulle ginocchia, ma non leggeva. Spesso gli occhi le andavano al mare, che nel frattempo si era riempito di bagnanti e di imbarcazioni, con lo sguardo particolare di chi cerchi invano qualcosa. Agostino, dopo essere rimasto a lungo dietro la seggiola della madre, strisciando nell'arena, le girò intorno e ripeté con un tono di voce che avvertiva lui stesso fastidioso e quasi canzonatorio: «Ma è proprio vero? Oggi non si va in mare?» La madre forse sentì la canzonatura e il desiderio di farla soffrire. O, forse, quelle parole imprudenti bastarono a far traboccare un'irritazione a lungo covata. Ella levò una mano, e con un colpo che Agostino sentì molle, quasi involontario e già pentito nel momento in cui lo vibrava, lasciò andare un man rovescio molto forte sulla guancia del ragazzo. Agostino non disse nulla. ma fatta una capriola sull'arena, si allontanò per la spiaggia a testa bassa, verso le cabine. «Agostino! Agostino!» udì chiamare più volte. Poi il richiamo tacque, e voltandosi gli parve persino di vedere, tra tutte le imbarcazioni che gremivano il mare, il pattino candido del giovane. Ma ormai non gli importava più nulla di tutto questo. Come chi abbia trovato un tesoro e corra a nascondersi per guardarlo a suo agio, con lo stesso senso pungente di scoperta egli correva a rintanarsi con il suo schiaffo, cosa tanto nuova per lui da parergli incredibile. La guancia gli bruciava, aveva gli occhi pieni di lacrime che tratteneva a stento, e temendo che sgorgassero prima che giungesse in qualche riparo, correva curvo sopra se stesso. L'amarezza accumulata per tutti quei giorni in cui era stato costretto ad accompagnare il giovane e la madre nelle loro gite gli faceva ora un torbido rigurgito, e quasi gli pareva che, liberandosene con un pianto abbondante, avrebbe capito finalmente qualcosa di quelle oscure vicende. E la chiamano estate, questa estate senza te, ma non sanno che vivo ricordando sempre te. Come giunse davanti alla cabina, esitò un momento cercando un luogo dove rifugiarsi. Poi gli parve che la cosa più semplice fosse richiudersi nella cabina stessa. La madre ormai doveva essere in mare, nessuno l'avrebbe disturbato. Agostino salì in fretta la scaletta, aprì l'uscio e, senza richiuderlo del tutto, andò a sedersi in un angolo, sopra uno sgabello. Si rannicchiò con le ginocchia contro il petto, la testa appoggiata contro la parete, e presosi il viso tra le mani, incominciò coscienziosamente a piangere. Lo schiaffo gli balenava tra le lacrime, e si domandava perché mai, pur dandoglielo così forte, la mano della madre fosse stata tanto irresoluta e molle. Al cocente senso di umiliazione che destava in lui la percossa, si mescolavano, più forti ancora se era possibile, mille sensazioni sgradevoli che in quegli ultimi tempi avevano ferito la sua sensibilità. Fra tutte, una gli tornava con più insistenza alla memoria, quella del ventre della madre chiuso nella maglia fradicia, premuto contro la sua guancia, fremente e agitato da non sapeva che vogliosa vitalità. Come certi altri schiaffi dati sui vestiti vecchi vi fanno apparire larghe chiazze di polvere, così quella percossa ingiusta, vibrata per impazienza dalla madre, gli risvegliava nitida la sensazione del ventre di lei premuto contro la sua guancia. Gli pareva che questa sensazione a momenti si sostituisse a quella della percossa, a momenti invece si mescolava ed era al tempo stesso palpito e bruciore. Ma mentre capiva che lo schiaffo persistesse, riaccendendosi ogni tanto sulla guancia come un fuoco che si estingue, oscure gli restavano invece le ragioni della tenace sopravvivenza di quella lontana sensazione. Perché, tra tante, gli era rimasta impressa e così viva proprio quella? Non avrebbe saputo dirlo. Soltanto gli pareva che, finché fosse vissuto, gli sarebbe bastato riandare con la memoria a quel momento della sua vita per riavere intatto sulla guancia il palpito del ventre e la bagnata ruvidezza della maglia fradicia. Piangeva piano per non disturbare questo dolente lavorio della memoria. Pur piangendo schiacciava con le punte delle dita, sulla pelle intrisa, le lacrime che lente ma ininterrotte gli spicciavano dagli occhi. Nella cabina c'era una rada e afosa oscurità. Ebbe ad un tratto la sensazione che l'uscio si aprisse e quasi desiderò che la madre, pentita e affettuosa, gli ponesse una mano sulla spalla e prendendogli il mento rivolgesse a sé il suo viso. E già si preparava con le labbra a mormorare «Mamma», quando udì un passo entrare nella cabina e la porta richiudersi, senza per questo che alcuna mano gli sfiorasse le spalle e gli accarezzasse il capo. Allora sollevò il capo e guardò. Ritto presso la fessura della porta socchiusa, in atteggiamento di chi spii, vide un ragazzo che gli parve essere della sua stessa età. Indossava un paio di pantaloni corti, dal bordo rimboccato, e una canottiera scollata con un largo buco in mezzo alla schiena. Un raggio sottile e fulgido di sole, passando tra le connessure delle assi della cabina, faceva brillare sopra la sua nuca folti ricci color rame. A piedi nudi, le mani alla fessura della porta, egli sorvegliava la spiaggia e non pareva essersi accorto della presenza di Agostino. Agostino si asciugò gli occhi con il rovescio della mano e incominciò: «Di un po', cosa vuoi?» Ma l'altro si voltò e gli fece cenno di tacere. Voltandosi mostrò un brutto viso lentiginoso, in cui era notevole il roteare delle pupille di un celeste torvo. Agostino credette di riconoscerlo. Era in tutti i casi qualche figlio di bagnino o di marinaio. Doveva averlo visto, pensò, spingere in mare i pattini o fare simili cose in prossimità dello stabilimento. «Si gioca, guardie e ladri», disse il ragazzo dopo un momento, voltandosi verso Agostino. «Non debbono vedermi». «Che cosa sei tu?» domandò Agostino, asciugandosi in fretta le lacrime. «Un ladro, naturalmente», rispose l'altro senza voltarsi. Agostino considerava il ragazzo. Non sapeva se gli era simpatico, ma nella voce c'era un rozzo accento dialettale che gli riusciva nuovo e l'incuriosiva. Inoltre, adesso, l'istinto gli suggeriva che quel ragazzo rifugiatosi nella sua cabina era un'occasione, non avrebbe saputo dir quale, e che non doveva lasciarsela sfuggire. «Mi fai giocare anche a me?» chiese arditamente. L'altro si voltò e gli diede una squadrata insolente. «E che c'entri tu?» disse svelto. «Noi si gioca tra amici». «Ebbene», disse Agostino con vergognosa insistenza, «fate giocare anche me». Il ragazzo levò le spalle dicendo: «Ormai è troppo tardi, siamo già alla fine della partita». «Sarà per la prossima partita?» «Non ne facciamo altre», disse il ragazzo osservandolo dubbioso e come stupito da tanta insistenza. «Dopo si va in pineta». «Se mi volete ci verrò anch'io». Il ragazzo si mise a ridere tra il divertito e lo sprezzante. «Sei un bel tipo tu, ma noi non ti si vuole». Agostino non si era mai trovato in questa condizione, ma l'istinto, come gli aveva suggerito di chiedere al ragazzo di unirsi alla partita, così adesso, pur di farsi accettare, «Senti», disse irresoluto, «se mi fate entrare nel vostro gruppo, ti do qualcosa». L'altro si voltò subito, l'occhio acceso di avidità. «Che cosa mi dai?» «Quello che vuoi. Di tu quello che mi vuoi dare». Agostino indicò un veliero assai grande, con tutte le vele appiccate, che giaceva in fondo alla cabina insieme con altre cianfrusaglie. «Ti do quello». «E io che me ne faccio?» rispose il ragazzo con una spallucciata. «Puoi venderlo?» propose Agostino. «Non me lo prendono», disse il ragazzo con aria di esperienza. «Direbbero che è roba rubata». Agostino disperato si guardò intorno. All'attaccapanni pendevano i vestiti della madre, in terra le scarpe, sopra un tavolino un fazzoletto e qualche altro cencio. Non c'era proprio alcun oggetto nella cabina che gli sembrasse di poter offrire. «Di un po'», disse il ragazzo vedendo il suo smarrimento. «Hai delle sigarette?» Agostino ricordò che proprio quel mattino sua madre aveva messo nella gran borsa che pendeva all'attaccapanni due scatole di sigarette molto fini. E giubilante si affrettò a rispondere: «Sì, quelle le ho. Le vuoi?» «E si domanda?» disse l'altro con ironico disprezzo. «Che scemo che sei! Dammele via!» Agostino staccò la borsa dall'attaccapanni, frugò ne trasse le due scatole che, come incerto sulla quantità che l'altro volesse, mostrò al ragazzo. «Le prendo tutte e due», disse quello con disinvoltura afferrando le scatole. Guardò la marca, fece schioccare la lingua in segno di apprezzamento e soggiunse. «Di un po'. Devi essere ricco, tu». Agostino non seppe cosa rispondere. Il ragazzo proseguì. «Io mi chiamo Berto, e tu?» Agostino disse il suo nome, ma già l'altro non gli dava più retta. Aperta con le dita impazienti una delle scatole, rotti i sigilli dell'involucro di cartone, ne toglieva una sigaretta e la portava alle labbra. Poi trasse di tasca un fiammifero da cucina, l'accese sfregandolo contro la parete della cabina e, soffiata una prima boccata di fumo, si affacciò di nuovo cautamente alla fessura della porta. «Vieni, andiamo!» disse dopo un momento, facendo cenno ad Agostino di seguirlo. Uno dietro l'altro uscirono dalla cabina. Sulla spiaggia, Berto prese subito dalla parte della strada, dietro le file delle cabine. Camminando sull'arena scottante, tra i cespugli di ginestre e di cardi, egli disse: «Ora si va alla tana, tanto quelli sono passati e mi stanno cercando più in giù». «Dov'è la tana?» domandò Agostino. «Al banco Vespucci», rispose il ragazzo. Teneva la sigaretta con vanità tra due dita, come sfoggiandola, e ne aspirava con caparbia voluttà lunghe boccate. «Tu non fumi?» domandò ad Agostino. «Non mi piace», rispose Agostino, che si vergognava di rispondere che non aveva mai neppure pensato a fumare. Ma Berto rise. «O piuttosto di che la tua mamma non te lo permette, di la verità». Però pronunziò queste parole senza amicizia, con una specie di disprezzo. Porse ad Agostino la sigaretta e disse: «Su, fuma anche tu». Alba Rohrwacher ha letto Agostino di Alberto Moravia, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Chiara Valerio e Lorenzo Pavolini. Per riascoltare e scaricare il programma, radio3.rai.it.